Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per gli uccelli è cominciata la stagione delle grandi preoccupazioni, si è aperta la caccia e per un tordo o una quaglia oggi attraversare un prato è quasi più pericoloso di quanto non lo sia per un pedone attraversare un incrocio fuori dalle strisce. È una grandinata di pallini di piombo. Ma gli uccelli si consolano, la caccia non è mica pericolosa soltanto per loro. Leggendo i giornali sembrerebbe che la caccia fosse uno sport pericoloso, è vero? No, non è pericoloso. L'importante è che tutti si ricordino che hanno un'arma nelle mani. Ecco, guardi quello laggiù. Ha sparato contro il bosco altezza d'uomo. E invece cosa doveva? Mi rendo conto che è l'ultima delle preoccupazioni dell'italiano medio che oggi approfitta di questa giornata di switch totale, di cambio totale. Quando il primo settembre coincide con il lunedì è irrevocabile, inequivocabile, incontrovertibile. Il tempo cambia, le vacanze sono finite. Qualunque siano state le vacanze, belle, brutte, meste, lussuriose, micragnose, dilapidatorie, comunque sia, oggi sono finite. A Roma poi c'è il fortunale, il temporale, quindi immancabilmente siamo entrati nell'autunno. In questo cambio radicale fra la spensieratezza estiva, in cui qualunque problema sembra un problema relativo, un problema lontano, un problema che non ci tocchi perché noi siamo in vacanza, e la cruda e triste prassi del quotidiano che riprende con l'autunno, con il primo settembre, con il primo lunedì di settembre, giornata maledetta, c'è una fattispecie che probabilmente mi va questa mattina di considerare assieme a voi. Da qualche parte, in qualche maniera, riapre la caccia, una preapertura della caccia, non è un'apertura totale, non voglio entrare nemmeno in merito di cosa significhi esattamente, ma quel tristerrimo documentario dell'Istituto Luce degli anni 64, e con questo ammiccante doppio senso da parrocchia, gli uccelli si preoccupano, ecco, anche oggi da qualche parte si preoccuperanno gli uccelli, perché questa mattina, mentre molti di voi imprecando, bestemmiando, pensando ancora alla pelle che sta desquamandosi, portando via le ultime propaggini di lussura estiva, vanno a lavorare, porteranno ancora i figli a scuola, no, c'è il problema di riempire questa settimana coi pargoletti, non si sa dove metterli. Beh, qualcuno questa mattina si è messo gli anfibi, si è messo la tuta mimetica, si è messo il carniere, si è messo il berrettino con la penna, si è preso il fucile, le cartucce, il panino, la borraccia, è andato a caccia. E oggi sono probabilmente preoccupazioni per la tortora ai corvidi, che in alcune regioni oggi è aperta la caccia, quindi attenzione, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, oggi arrivano le fucilate, poi il colombaccio nella Calabria, nelle Marche, Sicilia, Umbria, Veneto, Friuli e Toscana, il merlo in Abruzzo, Romagna, Toscana, Umbria, Veneto, la quaglia nel Friuli, Puglia, Umbria, e poi la prepartura anche alla caccia degli acquatici per le Marche, Friuli, Umbria e Toscana. Beh, a me fa sorridere, nulla di preconcetto nei confronti della caccia, figuriamoci, sono un neonato scannatore di maiali e strozzatore di galline, quindi non mi sono mai posto il problema del povero animaluccio indifeso, però oggi mi sembra veramente obsoleto, fuori tempo pensare qualcuno oggi vada a caccia, vada in giro a sparare a uccelletti, non si sa perché, per come, per quando. Nulla contro le armi, nulla contro l'esercizio venatorio, ma voi come la pensate? Pensate che ancora abbia un senso oggi andare a caccia? Se ha un senso, spiegatemi la vertigine di alzare questa mattina di andare a sparare gli uccelletti. 800 24 00 24, cominciate a chiamarmi, perché io di fare monologhi più di tanto non mi va. Arriva un gruppo di cacciatori della domenica, guardate come si passano le armi dalla macchina. Se Santuberdo si distrae per un attimo e dimentica di proteggerli, saranno gli infermieri stasera a tornare a casa con il carniere pieno. Poi se ne vanno in giro con i fucili puntati l'uno contro l'altro. Se c'è chi grida agli automobilisti imprudenti, ma chi te l'ha data la patente? A questi bisognerebbe gridare, ma a te chi te l'ha dato il porto d'armi? Ma il porto d'armi viene rilasciato a chiunque? Normalmente sì. Domanda in carta da bollo, pagamento della tassa, certificato penale. E se è nervosissimo, chi lo sa? Ma è appunto per questo che per l'aspirante cacciatore... 800 24 00 24, in questa riapertura di Melog autunnale, oggi parliamo della riapertura, della preapertura della caccia. È una cosa seria, è un'attività che coinvolge un'infinità di italiani, c'è dietro un grande mercato, siamo dei grandi produttori di armi da caccia, quindi è naturalmente una fetta di mercato sul quale non si può soltanto ironizzare o soltanto risolverla con ideologie o con prese di posizione emotive. Però, ripeto, oggi mi sembra, forse perché la mia esistenza da da contadino inurbato me lo fa sentire così lontano, pensare questa mattina qualche uccelletto, qualche uccellone si debba preoccupare, poi dipende dalla stazza della selvaggina, che qualcuno vada in giro armato come un guerrigliero per sparare ad uccelli, mi sembra qualcosa che non so, come se appartenga a un altro mondo, ma magari è una mia impressione, mi sono svegliato così, non è esattamente così, voi la pensate diversamente. Fatemi sapere se considerate che l'esercizio venatorio o l'esercizio della caccia sia qualcosa ancora adeguato alla contemporaneità, o perlomeno esiste una forma di pratica di questa attività che possa farlo coincidere. Immagino grandi riserve, mi faranno subito l'esempio di paesi civilissimi in cui le persone vanno a caccia senza dar fastidio a nessuno e nessuno protesta. Probabilmente è così, ma qual è il vostro punto di vista? 800240024. Lo so che non se ne deve fare una questione morale. Comunque io ogni volta che sento che un cacciatore muore per mano di un altro cacciatore, io gioisco. È un olocausto. Mi rivolgo a lei per chiedere dove sta la morale. Ne ho conosciuti tanti, tantissimi di cacciatori. Sono quasi tutti molto cattivi e persone a me anche molto vicine nel cerchio della parentela. Sono contenta quando ne muore qualcuno. La ringrazio dell'attenzione. Buongiorno. Mi fa venire i brividi questa ascoltatrice che è felice quando muore qualche cacciatore, avrà avuto brutte esperienze famiglia, avrà avuto qualche zio, qualche nonno, qualche suocero cacciatore che l'avrà insidiata, malmenata, ma questo può accadere anche se fa il sacrestano, se fa l'ingegnere, se fa il commercialista, se fa il macellaio, se fa qualunque tipo di attività. Ma pensare che gode quando muore qualche cacciatore mi sembra il paradosso. Ma esiste questo paradosso? Esistono persone che considerano il cacciatore una persona crudele, che compie un esercizio di sterminio di povere creature innocenti che ormai non è più adeguato alla contemporaneità. Non è questo il mio punto di vista. Il mio punto di vista è capire come oggi possa articolarsi con la vita moderna, contemporanea, quella che tutti svolgiamo, anche l'esercizio venatorio. Forse Francesco può aiutarmi in questo. Francesco, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno. Della stagione. Buongiorno. Cacciatore, no. Lei. Sì, sono molto contento di avere questa possibilità. Perché prima di tutto vorrei sfatare subito il mito senza luoghi comuni. Allora, i cacciatori sono obbligatoriamente in Italia incensurati, qualsiasi piccolissimo reato immediatamente oggi viene ritirato il portadarmi, abbiamo le chiese del mondo piene di preti pedofili, quindi guardate, state forse molto in percentuale, state molto più attenti dei preti che dei cacciatori. Sì, sì, che è un'altra caccia di uccelli quella, però limitiamoci all'esercizio venatorio. L'esercizio venatorio, il senso... Sì, ma nessuno ha mai detto che i cacciatori sono dei serial killer. Sto pensando come oggi la vedo sempre più lontana, diciamo, dalle consuetudini, dalle abitudini. Dove, secondo lei, ancora la caccia ha un senso nel nostro paese? Io frequento la caccia in tutto il sud dell'Italia, prima di tutto appartiene ancora alla cultura dei popoli radicata, è come quelli che fanno magari una ricetta culinaria particolare di quel luogo, loro sono legati a questo ricordo ancestrale dei nonni, dei bisnonni, dei loro genitori e nell'istinto venatorio, con tutte le regole che ci regolamentano, le assicuro. Quindi si trasmette in famiglia, diciamo, chi non c'ha i genitori cacciatori, i nonni, bravi. È difficile, a meno che non ci sia, ed è veramente un culto, e lo ripeto, dovrebbe entrare nelle tradizioni, regolamentato, ci hanno messo tutte le norme, noi le rispettiamo. Sì, io ricordo, c'è una forma di... Io guardi, presi anche la licenza di caccia, ragazzo, ma non andai mai a caccia, che poi un'altra cosa importante, chi non rispetta le regole dei cacciatori è un bracconiere, non è un cacciatore. Cacciatore e bracconiere sono due cose diverse. E poi la cosa che ho detto anche alla sua collaboratrice, mi scuso magari con il resto del pubblico, oggi che si uccidono tanti bambini, no, che si fa caccia di bambini, guerre, oggi mentre parliamo qua vicino ammazzano migliaia di persone, preoccuparsi degli uccellini, a me mi chiede... No, lì sono punti di vista, ognuno ha la sua maniera di pensare, in questo bisogna essere leggeri. Però allora, i punti sono questi: la caccia è una tradizione familiare, si trasmette di famiglia in famiglia, esiste una sorta di iniziazione del giovane cacciatore, la prima volta che un ragazzo va a caccia, il primo fucile di calibro ridotto, la prima selvaggina, se caccia il cinghiale lo inzuppano dentro la trippa del cinghiale squartato, qualcosa del genere, vero? Sì, lasciamo perdere un po' l'Entrio 6, perché poi là si fanno arrivare gli uccelli dall'ex Jugoslavia, gli uccellini, ma è un altro problema quello, perché questo sarebbe un problema molto No, come me lo spieghi? Li fanno venire surgelati, fanno finta che li hanno uccisi? Sì. No, no, no, no, siccome in Italia sono vietati, li fanno venire fuori nazione, perché oltretutto è anche illegale questo. Perché non, quegli uccelletti per la polenta 6 non si possono più uccidere? No, nessuno, nessuno. Quindi, cos'erano? Passerotti? Cos'erano? No, erano tutti i tipi di uccellini che oggi sono vietati, oggi magari si fa ancora con l'allodola, che è l'unica specie cacciabile che più o meno è paragonabile a questi uccellini piccoli, però voglio dire, in quel caso magari posso essere anche favorevole all'abolizione, perché se la legge ci impone questo. Io l'altra cosa importante che invece vorrei suggerirle come argomento, perché noi nell'Unione Europea, cacciatori italiani, siamo i più penalizzati, e come al solito i benestanti se ne vanno in Crimea, veda che oggi la Crimea sta, e sono zone organizzate per la caccia, però vede, c'è una sorta di esportazione. No, anzi, loro infrangono tutte le regole, perché io nella mia vita avrò ucciso sì e no 50 beccacce, e lì in una sola giornata macellano migliaia di beccacce, perché solo è un luogo dove tra parentesi si vende tutta questa selvaggina. Allora, sfermi un attimo, visto che lei mi è prezioso, stamattina non volevo ospiti, ma ho un ascoltatore così competente. Resti in linea i pochi secondi che noi mandiamo la pubblicità, poi riprendiamo con lei, e altri ascoltatori stanno chiamando, perché vedo che il tema è sentito. Mi sembrava così laterale, ma invece diventa centrale. Melog. Cronache meridiane. Mio papà mi portava a caccia, per me era normale avere una certa dimestichezza o sentir parlare d'armi. Fin da quando ho 5 anni che, accostandomi a quell'ambiente nel giusto modo e nel corretto modo, non è mai passata nella mia anticamera del cervello l'idea anche solo di poter far del male a qualcuno con delle armi. Se uno si toglie certe piccole soddisfazioni nel modo giusto, intendiamoci, si evita che dentro di lui si alimenti quella carenza o quel fatto di dire: mi sarebbe piaciuto ma non ho mai potuto permettermelo. 800240024, parliamo di caccia. Ho capito una cosa all'intervallo leggendo gli sms degli ascoltatori. Ecco, contro il cacciatore si qualizza, si condensa, si addensa tutta quella nube che rappresenta ciò che oggi viene considerato nel pensiero generale come detestabile. Luridi cacciatori, compreso mio suocero. Uccidere per divertimento è immorale, incivile, immaturo e selvaggio. Poi, cacciatore, perché tiri all'uccello se te l'uccello non tira? Da sollievo pensare che ogni tanto si sparano tra di loro. Ecco, il cacciatore, aveva ragione l'ascoltatore, abbiamo sentito poco fa, condensa tutta la possibile cattiveria, infamia, antimodernità che può rappresentare. Perché? Perché c'ha un fucile in mano, e quindi è un guerrafondaio, è un assassino, perché spara a povere creature indifese, e perché svolge un'attività cruenta e crudele. Pierluigi da Milano. Oh, buongiorno, bentrovati. Io volevo soltanto raccontare un episodio a cui ho assistito un po' di anni fa, e devo dire che fino a quel momento non avevo le idee molto chiare su da quale parte stare. Non sono né un vegano né un vegetariano e né l'opposto, ma ero in campagna ed ero andato a trovare un amico che ha scelto di vivere a poche ore da Milano per abbandonare la metropoli. E una mattina ho assistito a quella che si chiama una battuta di caccia organizzata, ovvero ben più tardi all'alba, ecco, molto comodo, una serie di signori accompagnati da un capobanda con varie jeep lussuose verso le 11. Beh, un safari, non era una battuta di caccia. No, questo succede a un'ora e mezza da Milano, io non le dico dove, ma succede tutti gli anni, quindi mi spieghi, a fare un video e non lo farò mai, perché non resisterei più a quella scena. Questi signori vengono fatti accomodare su delle banchine apposite, messa intorno al bosco, al boschetto. All'interno del bosco ci sono delle gabbie con dei fagiani rinchiusi dentro. Ad un segnale vengono aperte le gabbie, 4-5 inservienti, apro una parentesi, extracomunitari probabilmente, ma sicuramente non come dire, non sì, perché è un lavoraccio, si rischia di impallinare. Un lavoraccio, ma vestiti da fagiani, come? Cioè coperti di piume? No, non lo so, no, se, il loro compito è quello di fare fuggire i gabbiani dal boschetto. fanno sciosciole ai gabbiani. Per fare in modo che siano visibili a tutti quelli che a 360 gradi sono già lì a circondare e che fanno una mattanza degna di una scena, come dire, di un film dell'orrore o della, come dire, della stupidaggine. Ah, è un tiro al fagiano praticamente. È un tiro al fagiano. Allora io mi chiedo, questa cosa qui è legale, quindi mi riallaccio, a me sinceramente emozionalmente... Potrebbe andare in un allevamento di polli, fanno con le galline, però, la stessa esatto, cosa. Tutto questo in Italia è legale, tant'è che si ripete tutti gli anni, che quando io ho provato a ribellarmi ho rischiato, e devo dire giustamente secondo la legge, una querela per diffamazione. Ma diffamazione perché? Perché c'erano che non era perché vera? Perché li ho definiti assassini urlando da sopra la collina, perché ero un po' più giovane, e quindi questo è quello assassini. Che mi è uscito dal cuore. Sembra un po' patetico, perché che esercizio venatore. Lo ripeto adesso, al momento io le assicuro che la cosa era raccapricciante, almeno per me. Sì, ma adesso lo mangia al petto di pollo, scusi. No, ma io in un macello sverrei, mi perdono. Io lo so, anch'io però. Ho fatto una premessa, non sono né vegano né vegetariano, mi sento, come dire, da questo punto di vista non coerente, però voglio dire, quella cosa lì, almeno, non chiamatela sport. E su questo mi sembra giusto. Gian Pietro, come la pensi? Sì, no, dopo questa telefonata devo dire che avrei gran poco da dire, nel senso che messa in questa maniera... Vabbè, è chiaro, il paradosso è il paradosso. ...le truppe militari a sparare in Iraq contro la gente. No, non è così. Io non sono un cacciatore, da piccolo avevo mio padre che era cacciatore, ancora ogni tanto cerca di andarci, in realtà lo vedo che ormai inizia a tirare perché ha suoi 70 anni e quindi fa anche abbastanza fatica. Però ho avuto esperienza da piccolo dove volevo a tutti i costi diventarsi cacciatore, e ho avuto le stesse esperienze che ha avuto il signore che ha appena telefonato, per cui gestivo una riserva, sto parlando di 20 anni fa, 20-25 anni fa, e lasciavano le starne oppure i fagiani lì vicino a poche distanza, sparavano, ridevano, un esercizio sanguinario mi ha dato veramente alla nausea. Poi crescendo ho avuto occasione di andare all'estero e vedere che forse anche il rapporto con la natura può essere decisamente diverso. Io vorrei riscoprire molto volentieri la cultura della caccia, che in Italia è stata perduta. Cioè l'idea della gestione del territorio è il fatto che se io uccido un animale, come mi è capitato di vedere in Repubblica Ceca, come mi è capitato di vedere in certe riserve all'estero, in Italia un po' meno, forse perché abbiamo un grosso consumo del terreno. Sono d'accordo con lei che in Italia effettivamente è difficile rivedere questa cosa, però la mia paura non è tanto il dover perdere l'esercizio della caccia in Italia, perché tanto la caccia ci sarà sempre, sono molto confidente in questo e per fortuna che c'è, perché è un metodo attraverso il quale l'uomo ha rapporto con la natura, io la vedo così. Ma immagino, ma ci sono zone dell'Italia, ma anche che i cinghiali arrivano nelle città, si vedono sgrufolare insieme per fortuna, della spazzatura. Sì, sì. Perché scusi, ma qualcuno la sparagli però, perché non... Ma tanta gente, non cioè, si addomestica. La cosa che mi infastidisce è vedere gente che ce l'ha appunto con la caccia, perché la violenza, e poi si mangiano il pollo, si mangiano le piatto, allora bisogna diventare tutti vegetariani. Fermala un attimo, Patrizia, oh, finalmente una donna, oggi la volevo. Patrizia, sì. Cacciatrice, esatto. Mi dia una risposta rispetto a quello che ha detto, lei da quanto spara? Guardi, io ho preso la licenza di caccia nel 95, perché sono sempre andata all'estero dietro a mio marito. A cosa spara lei? Come? A cosa spara? Ma io ho anima liscia e anima rigata, vale a dire carabina con munizioni per gli ungulati e anima liscia. Quindi va a pace, gaidaino, capriolo, queste cose qui. Diciamo che io ho tutti questi animali ungulati, vado all'estero a cacciarli perché c'è una, come dire, c'è un modo di cacciare che non va contro natura, vale a dire ti fanno sopprimere gli animali che hanno superato i 7 anni di età, e questo lo si vede dai trofei, perché con lo spectiv possono calcolare l'età dell'animale. E in Italia invece cosa spara? Ma in Italia mi fanno morire da ridere, scusi, e vanno a sparare agli yearling, pertanto per intenderci negli ungulati. Gli yearling sono animali che non hanno 2 anni. Sono i cuccioli cosiddetti. E in Italia, quindi, si spara questo. In Italia non è stato ancora legiferato qualcosa, perché c'è qualcuno che quando va a fare la campagna elettorale non gli viene in mente di dire. Ah, ecco, cioè è un gran serbatoio di voti. Nessuno questo, lo vota. Lei vuol dire questo, no, Patrizia? È un gran serbatoio di voti, comunque, il mondo dei cacciatori. Quindi comunque, nessuno regola. Ci saranno tanti animalisti, ma gli animalisti io li ho visti poi andare al supermercato e comprarsi il pollame. Vabbè, adesso questo è un discorso superato. No, sì, certo, però bisognerebbe anche far capire alla gente che chi va a caccia non va a sparare al povero passerotto, ammesso che ce ne siano ancora, perché con i diserbanti se ne stanno andando via anche loro. Rondini non ce ne sono più, siamo invasi. Sentiamo per Luigi da Roma, così bilanciamo un pochino. Abbiamo sentito l'ascoltatrice, prima donna dalle due anime, anima liscia, anima rigata. Sentiamo per Luigi da Roma. Ma io rimango francamente stupito che una donna possa diventare cacciatrice, anche se lei non pensava che le donne potessero avere due anime. Anche bene, c'era Diana, cacciatrice al tempo dei Romani, e vabbè, ma la ritengo una pratica barbara. Bisognerebbe soltanto riflettere riguardo la sofferenza che si infligge ad un essere vivente per il proprio gusto. Quindi lei la bacchia e non lo mangia? Allora, le spiego e le dirò, perché poi mi sono trovato in questa contraddizione. Già c'è un sistema di allevamento di animali da macello vergognoso, perché io ho visto il punto di vista sulla caccia, lei è contrario totalmente. Sono contrario totalmente. Dipendesse, se fosse libero come esercizio, senza pagare pegno alla legge, mi divertirei molto ben volentieri a cacciare con cartucce a sale, si intende, così poi imparano, è propedeutica la cosa. Vabbè, il nostro ascolto abbiamo capito, è tanto portato all'umanità che sparerebbe cacciatore un cacciatore a sale con cartucce a sale, che comunque fanno molto male quando arrivano. A domani.